TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fedriga nega la valenza politica del referendum sulla giustizia, che sostiene con il sì per liberare la magistratura dalle correnti. Per Ilaria Capozzi dei 5 Stelle la riforma, se confermata, indebolirà l'autonomia dei giudici. 200 famiglie della Val Canale non possono esercitare il proprio diritto storico di sfruttamento del legnatico nel bosco, da quando 3 anni fa è cambiato il gestore dei 24.000 ettari di foresta. Chiedono aiuto alla politica. 9.000 potenziali studenti hanno partecipato alle 4 giornate di orientamento promosse dall'Università di Udine, in cui accanto alla presentazione dei corsi era previsto anche la consulenza con i tutor. Sorge Chalandon, lo scrittore francese, è arrivato a Pordenone, dove rimarrà tutta la settimana per accompagnare gli eventi a lui dedicati dal festival. Questo pomeriggio la consegna del sigillo della città. 500 piccoli protagonisti per uno spettacolo solidale cominciano a Fagani alle repliche di Sotto la pelle del mondo, progetto di teatro immersivo che coinvolge famiglie, scuole e comunità. Lo sport, alle Paralimpiadi attesa per la seconda manche dello slalom femminile dedicato alle atlete con disabilità visiva, la monfalconese Martina Vozza è terza. 13esima dopo la prima discesa del gigante di ore, la tarvisiana Lara Della Mea. Per il calcio di Serie A, l'Udinese ospiterà stasera la Juventus. Per la A di basket, Udine in trasferta a Venezia, Trieste in casa con Trento. Buongiorno da Andrei Marusic e Nada Cioc. Ultimo fine settimana di campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e il 23 marzo. Il presidente Fedriga, schierato per il sì, nega che si tratti di un referendum politico. Capozzi, dei 5 Stelle, invita a votare per il no per avere, dice, una magistratura autonoma. Una riforma dell'ordinamento giudiziario che favorisce l'imparzialità di chi è chiamato a giudicare e rende i magistrati stessi più liberi dall'influsso delle correnti. Ne è convinta la Lega, che ha intensificato la campagna elettorale per il sì. Ieri a sostenere queste ragioni è arrivata a Trieste Ingrid Bisa, componente della Commissione Giustizia della Camera. A suo avviso la riforma è in linea con la Costituzione e rafforza il giusto processo. Conclusioni affidate a Massimiliano Fedriga, che ha negato con forza la valenza politica del voto del 22 e 23 marzo. Non è il voto sul governo, è un voto su una riforma che dice la terzietà del magistrato giudicante, che deve essere terzo e quindi carriere separate, e dice che le correnti non possono più determinare la rappresentatività in un organo che non è rappresentativo, ma un organo di garanzia, che è il CSM. Noi abbiamo confuso un organo di garanzia come se fosse il rappresentante delle correnti. Sul fronte opposto il Movimento 5 Stelle, che in un incontro a Udine ha ribadito, per citare testualmente la consigliera regionale Rosaria Capozzi, che il rischio è quello di produrre un indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, insieme ad una crescente politicizzazione dell'azione giudiziaria. E anche se la riforma non costituisce direttamente un asservimento della magistratura al potere politico, ha spiegato l'avvocato Raffaele Leo, portavoce del Comitato Avvocati per il No, ne crea comunque i presupposti. Con la creazione e lo sdoppiamento dei due CSM, un'alta corte disciplinare, e in più con il modo del sorteggio, che è pilotato da una parte mentre è integrale dall'altra. Quindi si crea una maggiore influenza di quelli che sono i membri, diciamo, laici, che saranno espressione della parte politica e saranno quindi espressione della maggioranza. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. 24.000 ettari di bosco tra Pontebba e il confine di proprietà dello Stato, sul quale un centinaio di famiglie della Val Canale hanno il diritto di legnatico e per loro off limits da 3 anni. I consorzi vicinali della Val Canale domani faranno un punto stampa in cui delineeranno le prossime mosse da intraprendere per risolvere questo stallo. Chiediamo a uno dei rappresentanti degli aventi diritto, Gabriele Dell'Ussu, quali sono i danni per le famiglie per il bosco da 3 anni di blocco di legnatico. Fino a poco tempo fa, oltre a trarne l'utile beneficio della legna da ardere, facevamo anche da giardinieri e curavamo questa proprietà, che è del fondo edifici di culto, e vi sono circa 24.000 ettari di cadenti nell'ex territorio austro-ungarico che va da Pontebba a Cocau. Adesso più che mai, con i prezzi alle stelle del metano e del gasolio, questa fonte primaria di energia è diventata indispensabile. Il blocco è avvenuto da 3 anni quando c'è stato un passaggio di gestione. I nostri diritti, chiamati volgarmente diritti di servitù, in realtà sono diritti reali di godimento, ricadenti su una proprietà altrui. In questo caso il fondo edifici di culto che fa capo al Ministero degli Interni. I problemi sono due in generale. La legge regionale in qualche modo limita l'esercizio del nostro diritto, perché alcuni articoli, alcune prescrizioni in esse contenute rendono difficoltosa la lavorazione in proprio del nostro legname. Poi c'è la gestione attuale che sta mettendo in discussione dalle basi del nostro diritto. Ci contestano l'uso, l'utilizzo. Vorrei puntualizzare che il rapporto giuridico tra aventi diritto e proprietà esula queste cose, questi compiti decisionali del gestore. Vorremmo chiedere aiuto alla politica nazionale romana ed eventualmente anche alla politica austriaca, direttamente al governo austriaco, perché questi diritti provengono e sono stati riconosciuti da trattati bilaterali. Si fermi la potatura di alberi e siepi o lo sfalcio della vegetazione lungo i corsi d'acqua tra marzo e agosto, perché mettono a repentaglio la fase più delicata della vita degli uccelli, la riproduzione. L'appello arriva dalla LIPU e chiede di evitare il taglio delle piante nel periodo tra marzo e luglio, mesi in cui si concentra la nidificazione degli uccelli, se non per motivi circoscritti e di forza maggiore. I dati confermano la presenza importante di uccelli nelle aree urbane, riportano da una 50 fino a un 100 di specie diverse che nidificano in ciascuna delle nostre città. La LIPU ricorda che i nidi degli uccelli sono protetti in tutto il territorio, aree urbane incluse, e la distruzione di un nido si configura come reato penale. Difficile operazione di recupero di un escursionista ieri sera dalla stazione del soccorso alpino di Pordenone nella palestra di roccia di Dardago. La richiesta di aiuto è arrivata all'imbrunire dallo stesso infortunato che in fase di arrampicata è caduto per una 20 metri. Per raggiungere l'uomo ferito con politraumi, i soccorritori hanno dovuto prima liberare l'area da rami e arbusti con l'uso della motosega. Il ferito è stato quindi stabilizzato, imbarellato e prelevato con il varicello a bordo dell'elicottero che lo ha portato all'ospedale di Udine. San Giovanni al Natisone, sorpresi nella notte 3 giovani a bordo di un'autovettura rubata. I carabinieri hanno notato un veicolo sospetto con 3 persone fermo in una via del centro abitato di San Giovanni al Natisone. I militari hanno proceduto al controllo dei veicoli e degli occupanti, uno abitante del posto, mentre gli altri 2 residenti fuori provincia. Dagli accertamenti è emerso che i 3 non risultano aver mai conseguito la patente di guida. Dalle verifiche effettuate, l'autovettura è stata rubata la notte stessa a Mossa, in provincia di Gorizia. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario e i 3 denunciati. La situazione debitoria della Triestina, presa in esame con un'interrogazione dal PD in comune. La consigliera comunale Pucci afferma che la situazione debitoria della società calcistica cittadina nei confronti del comune è preoccupante. Dall'accesso agli atti emerge che il canone annuo della concessione, pari a un po' più di 197 milioni di euro più IVA, doveva essere versato in un'unica rata entro il 31 luglio del 2025. Tale termine non è stato rispettato e dalle diverse comunicazioni ufficiali dell'amministrazione alla società calcistica risulterebbe una situazione di morosità al 29 settembre scorso pari a 241 milioni 210 mila euro. Alla luce di questa morosità, la consigliera ha predisposto un'interrogazione in cui chiede se siano state applicate le penali previste dal contratto e i motivi per i quali non si sia intrapreso un procedimento di risoluzione già ad ottobre 2025. Siamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 14,5 gradi, Gorizia 13, Udine 11,5, Pordenone 10, Tarvisio 8,5, Tolmezzo 8 gradi, Forni di Sopra 6,5 gradi, Sappada 4, Monte Lussari 5 decimi di grado, sullo Zoncolan -1 grado, Alineano 14,5 grado, 13,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA per oggi: cielo in prevalenza coperto, in giornata saranno possibili piogge sparse su tutta la regione, più probabili sulla zona montana. In serata le precipitazioni diventeranno più diffuse e abbondanti sui settori occidentali, in particolare sulle prealpi carniche, dove potranno essere localmente intense e con rovesci, mentre altrove saranno da deboli a moderate. Quota neve a circa 1400-1600 metri, sulla costa soffierà vento moderato da sud-est. Sono stati circa 9000 gli studenti dell'ultimo biennio delle superiori che hanno partecipato alle 4 giornate di orientamento promosse dall'Università di Udine in marzo. A visitare gli Student Day, come li hanno chiamati, sono stati principalmente giovani dal Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma anche da Austria, Croazia e Slovenia e da una decina di altre regioni italiane. I futuri studenti universitari hanno potuto così approfondire direttamente la conoscenza del mondo accademico friulano. In queste 4 giornate sono stati presentati 64 corsi di laurea con visite guidate ai laboratori, test e simulazioni, spazio anche all'incontro e consultazioni con i tutor, docenti e personale specializzato per approfondire i servizi per gli studenti, le opportunità professionali, la realtà della vita universitaria e le attività sportive. Inaugurato a Camino Altagliamento il Centro per i Disturbi Alimentari. Una struttura ampia, luminosa, a 3 piani, circondata dal verde, a Camino Altagliamento, architettura rurale settecentesca tipica della pianura friulana, ristrutturata e rimessa a nuovo. Si chiamerà Casa Lilla, come il colore del fiocchetto della Giornata Nazionale per la lotta contro i disturbi della nutrizione e alimentazione, che si celebra domani. Vigilia speciale in Friuli Venezia Giulia. Visitiamo in anteprima il primo centro regionale residenziale dedicato a una patologia, definita uno tsunami che travolge chi ne soffre, le loro famiglie, che prima causa di morte tra i disturbi psichiatrici per complicanze mediche, vede un'insorgenza precoce già dagli 8-9 anni e per il 90% colpisce persone di sesso femminile, anche se i casi maschili sono in aumento. Circa 1000 i casi seguiti ogni anno in regione. Casa Lilla accoglierà giorno e notte in camere singole o doppie 12 ragazzi dai 17 anni in su, a loro disposizione servizi educativi e riabilitativi e socioassistenziali di supporto. Nelle stanze dedicate lavorerà un'equipe multidisciplinare, psichiatra, medico nutrizionista, psicologo, psicoterapeuta, 6 infermieri, 4 OS, dietista, 6 educatori e consulenti. Casa Lilla aprirà tra qualche settimana, alcuni mesi dopo il previsto. A breve la pubblicazione del regolamento, perché è la prima struttura del genere, e la procedura di accreditamento. Il centro di Udine farà da filtro e proporrà gli ospiti a Camino Altagliamento, dove si potranno fare anche musicoterapia e pet therapy, così da riprendere una quotidianità che faccia uscire dall'angoscia, è stato sottolineato. Da tanti anni le famiglie aspettavano l'apertura di un centro regionale residenziale H24, così come l'associazione Fenice FVG, che resta accanto ai pazienti e ai loro cari durante le delicate fasi di cura e di riabilitazione. Prima erano costretti a rivolgersi fuori regione, da Porto Gruaro a Parma, una fuga sanitaria che il direttore generale di SUFC, Denis Caporale, stima in almeno 1 milione di euro l'anno e che con questo centro verrebbe interrotta. La struttura è stata acquisita dall'azienda sanitaria nel 2024 con fondi regionali. La stessa regione finanzia anche progetti di prevenzione nelle scuole. Camino Altagliamento, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ad Olegna del Coglio, viabilità ancora compromessa più di 3 mesi dalle frane e le alluvioni che portarono devastazione e morte a Brazzano e a Versa. A 4 mesi dall'alluvione dello scorso novembre che ha devastato l'Isontino, ad Olegna del Coglio le giornate di pioggia vengono vissute ancora con apprensione. La situazione del torrente Iudrio, esondato a causa delle forti piogge, è tuttora emergenziale, spiega il sindaco di Olegna del Coglio, Carlo Comis. I problemi principalmente sono il deflusso delle acque che sono in più punti del torrente Iudrio ostacolati da vegetazione, da riporti di terreno, di ghiaia e anche da vegetazione sia viva che anche morta portata dalle ultime piogge. Altra problematica, l'interruzione della strada provinciale 14, tuttora interrotta, ancora Comis. Nel comune di Dolegna è chiusa dalla frazione di Vencò alla frazione di Lonzano per 2 frane che stanno incombendo sul sedime stradale. Per consentire i collegamenti attiva una strada alternativa che però è molto stretta e non consente il passaggio nei 2 sensi di marcia quando transita la corriera. Una difficoltà che si accentua se deve passare un'auto lettiga e anche gli affari delle aziende ne risentono. Spiega il proprietario di uno storico mulino di Dolegna, Enrico Tuzzi. la nostra clientela si è dimezzata a causa del blocco di questa strada. Quindi se prima c'era l'adrenalina della prima ricostruzione, della prima immediata sistemazione, ora la ricostruzione unita alla messa in sicurezza, unita anche alla mancanza dei clienti, mi sta mettendo a durissima prova. Ostacoli diffusi tra molti operatori della zona che hanno deciso di avviare una raccolta firme per promuovere i lavori di ripristino della provinciale che ha già superato il centinaio di adesioni. Spiega il firmatario della petizione per la riapertura, Massimo Londero. Bisogna comunque segnalare questa situazione e cercare delle alternative che possano permettere naturalmente la riapertura in tempi possibilmente brevi. Dolegna del Collio, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Source Chalandon, il reporter francese autore di libri sulla questione dell'Irlanda del Nord, è arrivato a Pordenone da protagonista del Festival Dedica. Questo pomeriggio alle 16.30 incontrerà il pubblico al Verdi di Pordenone, dialogherà con lo scrittore Andrea Tarabbia e riceverà dal sindaco Basso il sigillo della città. Il giornalista conta i morti, il romanziere può dire ai morti ti supplico, alzati. Quello che vorrei restasse del mio lavoro è che non venga mai tradito, perché io non ho mai tradito il bambino che sono stato, il giovanotto che sono stato e l'uomo che sono. Sono le parole di Sorge Chalandon, protagonista della 32esima edizione di Dedica Festival, che sarà a Pordenone per una settimana fitta di incontri con il pubblico. Il via nel pomeriggio al Teatro Verdi, dove riceverà il sigillo della città e dialogherà con Andrea Tarabbia. Un primo appuntamento che si preannuncia molto affollato, con un'affluenza tale che ha reso necessaria l'apertura della seconda galleria, così come hanno fatto registrare il tutto esaurito in anticipo altri appuntamenti della settimana, al punto che 3 eventi sono stati trasferiti dall'ex convento di San Francesco a spazi più capienti. Tra le novità più significative di questa edizione c'è Dedica per il Sociale, in collaborazione con la Casa per Anziani Umberto I, che porterà fra l'altro alcuni ospiti della struttura ad assistere alla premiazione del concorso per studenti alla presenza dello scrittore. Pordenone, Lara Zani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Bestiario Immaginato, il progetto creativo che da anni coinvolge scuole, famiglie e comunità della regione, è arrivato alla sua 12esima edizione con lo spettacolo teatrale immersivo Sotto la pelle del mondo. È una performance con al centro la scenografia realizzata da oltre 500 bambini e bambine insieme alle loro famiglie. Oggi domenica alla Chiesa delle Catine di Villalta di Fagania sono previste 8 repliche dello spettacolo, nel pomeriggio alle 14.30 e alle 16. Il pubblico potrà entrare nella pancia del bestiario e vivere un viaggio sensoriale tra suoni, racconti e percezioni tattili. I tessuti utilizzati per l'installazione sono stati raccolti grazie alla collaborazione del Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine. A Mara Fabro, presidente della Onlus d'Amatrà e ideatrice del Bestiario Immaginato, abbiamo chiesto di raccontarci il tema scelto per questa 12esima edizione. Abbiamo cominciato chiedendo a più di 600 bambini cosa c'è sotto la pelle, perché la pelle è di fatto la nostra frontiera. Questo bestiario immaginato ha 12 anni ormai, e in tutti questi anni ci siamo interrogati in tantissimi modi intorno all'immaginario dei bambini e delle bambine, a partire da questa immagine totemica degli animali, delle bestie. Ci mancava questo, andare sotto la pelle, attraversare la frontiera. Abbiamo giocato ad immaginarci sotto la pelle degli animali, e adesso finalmente, in questo grande evento conclusivo di teatro immersivo, potremmo entrare, attraversare la frontiera, andare dall'altra parte. Un'installazione che resterà visitabile a lungo, soprattutto per le classi che vorranno venire qui in gita alla Casa delle Culture Bambine. Basta mettersi in contatto con noi, con una mail, con una telefonata, perché questo lavoro è così bello, è davvero una scultura abitabile che abbiamo deciso che è importante che rimanga visibile il più possibile. È anche un gioco di sensazioni tattili e forse anche emotive, perché i materiali in sé traducono delle esperienze. Beh, questo lo ascoltiamo nell'audio che verrà diffuso attraverso le cuffie Wi-Fi. Grazie al lavoro di Invasioni Creative abbiamo esplorato proprio questo: che cosa ci raccontano i bambini e le bambine quando chiediamo loro che cosa sentono sulla loro pelle e come si sente con la pelle. Qui si dischiude un universo di emozioni piccole e grandi, che forse è il valore aggiunto di questa esperienza di teatro immersivo. 12.49, siamo allo sport, partiamo dalle Paralimpiadi, terzo posto nella prima manche per la monfalconese Martina Vozza nello slalom dedicato alle atlete con disabilità visiva, la 22enne isontina assieme alla guida Ilenia Sabidussi attende la seconda manche programmata alle 13, sentiamo il suo commento, il commento della sua guida raccolto dal collega Lorenzo Leonarduzzi di Rai Sport al termine della prima manche. È stata una bella manche, in alto sono riuscita a spingerla bene, poi da metà purtroppo ero piena di goccioline sulla maschera, non sono riuscita a pulirmi perché era un po' troppo veloce, cioè dovevo stare dietro a tutto e ho deciso di non farlo per non rischiare di perdere lei, quindi ho fatto un po' più difficoltà a seguirla e lì ho perso un pochino, me ne sono accorta, però ho fatto quello che potevo, ho cercato di spingere il più possibile e adesso vediamo di fare così anche la seconda. Ilenia, la seconda bisogna mantenersi sul podio e magari guadagnare anche qualcosa. Ma sicuramente guadagnare un po' di secondi, sperando che cali un po' sta nevicata, che non è così forte in realtà, però in slalom colpendo il palo, perché io non ho avuto problemi con la lente. E sapevo però che lei neve, sale il palo, che il rimbalzo, la neve torna su e in più la neve, comunque sapevo che sarebbe andata un po' in crisi da metà in poi e ho cercato di guidarla al meglio possibile sotto, le dicevo, mi giravo un po' di più, le dicevo se la strada era giusta o se doveva andare un po' più con le punte in giù, perché lei non sapeva più dov'ero, però è stata brava a combattere fino in fondo, sono soddisfatta e fiera di lei. Ad ora in Svezia si corre invece il penultimo gigante femminile di Coppa del Mondo di questa stagione. Tra le azzurre gareggia la tarvisiana Lara Della Mea, autrice di una prima manche decisamente sottotono, complici molti errori effettuati, chiudendo in tredicesima posizione. 2 secondi e 42 centesimi la dividono dalla leader, la svizzera Camille Rast. Tra le italiane l'ottavo posto di Goggia e il nono della Zenere. Seconda manche alle 13. L'Udinese ospita questa sera la Juventus nel campionato di Serie A, Stadio Friuli, verso il tutto esaurito, fischio d'inizio alle 20.45. Il calcio in bianco e nero, colori mai banali se sei tifoso di Udinese o Juventus. Sfida che tocca quota 103 in Serie A, tante le vittorie per la vecchia signora, 71 e poche, 14, ma per questo preziose, quelle delle zebrette friulane. Storia che fa posto all'attualità nella corsa Champions della squadra di Spalletti, che proprio a Udine, 21 anni fa, ha conquistato la sua prima qualificazione nell'Europa dei Grandi, prima di un addio dopo 117 panchine che i friulani non hanno dimenticato. Juventus sesta a meno uno da Como e Roma e quindi a caccia dei tre punti. Udinese nella terra di mezzo, reduce dalla vittoria sulla Fiorentina e dal pareggio di Bergamo. Per continuare nella striscia positiva e resistere all'urto di una squadra che nonostante le critiche con 50 gol ha il secondo miglior attacco del campionato, l'Udinese deve trovare compattezza nella sua difesa, una delle più battute con 41 reti subite. E dovrà farlo ancora senza Solé, che sta recuperando dall'infortunio con Runjajc, orientato a schierare Isibue nei tre davanti ad Okoye. L'alternativa è Mlacic. Lo spalatino, fresco 19enne, ha già fatto vedere di potersi costruire un futuro importante. In attacco la sfida a distanza tra Davis e Yıldız, entrambi a quota 9 reti. Il sogno dei tifosi dell'Udinese, quello di battere in uno stadio Friuli tutto esaurito dopo Napoli e Roma anche la Juve. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel basket Udinese sarà in trasferta a Venezia, mentre alle 20.30 toccherà Trieste in casa con Trento. Biancorossi in piena crisi, oltre che con una situazione societaria tutta da definire. Poi la pallanuoto, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile con la squadra labardata che ospita Genova, poi gara di andata dei quarti di finale di Eurocup femminile per le Orchette che saranno impegnate in trasferta contro l'Etinkos. Si gioca nella piscina del Pireo, il match alle 18. Le nostre rubriche, domani dopo il giornale radio delle 8.30 va in onda la nostra rubrica di agricoltura, Vita nei Campi, sentiamo. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura parla di asparago bianco e di promozione di altri prodotti top dell'enogastronomia regionale con il Ducato dei Vini Friulani. A seguire il sabato succulento della visita pastorale del Vescovo di Concordia nel 1572. Viticoltura biologica, dalla gestione dei patogeni alle zone evocate ai bilanci d'azienda, tutti gli aspetti da valutare. La palma da olio, ultima commodity scoperta e diffusa dall'uomo su scala planetaria, affinamento sulle fecce del lievito o derivati dal lievito, il ruolo nella conservazione del vino. E ancora camosci, stambecchi, cervi, caprioli, marmotte, ma anche orso, lince e lupo, la fauna del Parco delle Dolomiti Friulane. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo, il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. E domani anche l'appuntamento con Est Ovest. La guerra di Trump e Netanyahu contro l'Iran degli Ayatollah paradossalmente avvicina i turchi e i greci di Cipro. Il Parlamento europeo ha avviato programmi per la produzione di nuovi sistemi d'arma per la difesa degli Stati membri. I giovani italiani che studiano medicina in Albania stretti tra l'incertezza burocratica e i doveri accademici. In Repubblica Ceca sale la tensione per i presunti conflitti di interesse del neoeletto premier e miliardario Andrej Babiš. Lusitania, romanzo antimilitarista di Dejan Atanackovic in Serbia, ha provocato feroci polemiche nazionalistiche. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E questo è tutto per il nostro giornale radio, che è stato redatto e condotto da Andrei Marusic e Nada Cioc, con la collaborazione di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.